farò una brevissima introduzione a Lucio. Non c'è bisogno di, come dire, di introdurlo troppo. Giornalista Rai, esperto di cose su tirolesi, su tirolosologo, alto tesisologo. E comunque alla seconda credo pubblicazione di ufficiale, il libro che lo ha reso più famoso o famoso è Spaesati, che era un testo esplicitamente dedicato alla percezione, insomma, alla situazione socio-affettiva dei sudtirolesi di lingua italiana o altotesini, che dir si voglia. E invece con questo libro si confronta con un personaggio che purtroppo è appena scomparso, anche io credo che... sono io che suono. Dicevo, si confronta con un personaggio che purtroppo è scomparso il 19 dicembre dell'anno scorso, quindi da poco tempo, credo non abbia fatto in tempo neanche a mettere le mani sul prodotto finito, cioè sul libro. Questa è stata un po' una cosa sfortunata, perché far coincidere l'uscita di un libro con la morte praticamente sicuramente dispiace. La figura di Egmont Jenny non credo sia molto nota al grande pubblico, o almeno che uno non sia vissuto qua e si sia confrontato proprio tematicamente con le questioni politiche. Io che vengo per esempio da fuori, vivo in provincia solo da 13 anni, anche se mi sono molto interessato delle vicende locali, ho fatto fatica a pervenire alla conoscenza di questa figura, anche perché quando sono arrivato io lui era già, diciamo, politicamente uscito di scena. C'è un libro precedente, una monografia precedente, sempre edita da Rezia, dedicata a Jenny, è questo testo qua in tedesco, Bekenntnis zum Fortschritt, mein Weg zur Sozialdemokratie, che è uscito credo 3 o 4 anni fa, penso sia del 2007, ed è più o meno ha la stessa struttura, però i due testi sono diversi. Infatti questa non è ovviamente la traduzione di questo, il taglio è diverso e ci sono delle peculiarità diverse, quindi cambiando lingua, cambiando anche in qualche modo interlocutore pubblico, la prospettiva diventa un po' diversa. Detto a grandi linee la vita di Jenny, che poi ripercorreremo magari leggendo alcune pagine del libro, è nato in Vorarlberg a Rankweil il 7 ottobre del 24 e è morto appunto il 19 dicembre dell'anno scorso a Tirolo. Fondamentalmente è un medico, un urologo, ha avuto una formazione quindi medica. La sua attività politica data più o meno dal 1960 nella Volkspartei, nel partito di raccolta, dal quale però poi è stato velocemente espulso, cioè allontanato, comunque un rapporto conflittuale. Da qui forse si evince anche il titolo del libro, cioè un intruso, una persona che sicuramente portava una carica di diversità notevole all'interno del sistema sudtirolese. E poi fonda questo partito, Soziale Fortschrittspartei Südtirols, ovvero una sorta di partito socialdemocratico sudtirolese, da distinguere poi con il tentativo fatto da Hans Dietl in quegli anni lì, o in anni abbastanza successivi. La sua posizione, vedremo perché queste istanze di dissidenza, possiamo dire, o di forte critica al partito di raccolta, che cosa hanno significato. Una cosa che devo dire, la sua vicinanza con Kreisky, cioè con l'ex ministro degli esteri e anche primo ministro austriaco socialdemocratico, vicinanza molto forte, e quindi il rapporto Kreisky-Jenny può essere utile per in qualche modo capire una sorta di alternativa possibile all'autonomia così come l'abbiamo conosciuta noi, una sorta di via sotterranea che poi non è riuscita ad emergere, un ramo, ecco, che non ha fiorito. E questo può essere utile per chi si interessa, diciamo, della storia del Sud Tirolo, per scoprire quali possibilità latenti non sono giunte all'espressione e come forse si potrebbe riprendere il discorso in un'altra cornice, eccetera. Io adesso do subito la parola a Lucio. Noi abbiamo fatto una scaletta di temi ripercorrendo, insomma, il libro a blocchi, a pagine. Io la inverto rispetto a come me l'ha data lui è una persona molto ordinata, molto precisa. Io invece metto tutto, quindi lui è partito dall'inizio, giustamente, la scuola italiana è giovane, perché poi lui ha la peculiarità di essere figlio di un tirolese del nord e di una madre italiana. Era quello che, con un brutto termine, anche sbagliato, oggi diremo mistilingue, era fondamentalmente il figlio di una coppia mista e dunque bilingue naturale, peculiarità tra le altre che dovremmo stasera mettere a fuoco. Però, dicevo, io parto dalla fine, perché Lucio, ovviamente, in maniera giusta e molto intelligente, ha cercato di sollecitarlo sui temi che potevano interessare anche maggiormente il pubblico italiano, e il libro si chiude con un affresco sull'Italia di oggi che non è certamente entusiasmante. I colori sono abbastanza cupi, quindi si tratta, diciamo, di un quadro realista e non espressionista della situazione. Polemiche sull'unità d'Italia ci consentono, insomma, di parlare di questo, e il giudizio di Jenny sull'Italia di oggi e quindi poi retrospettivamente il ruolo, insomma, che l'autonomia ha all'interno dello Stato nazionale che quest'anno festeggia il suo 150esimo anno. Se vuoi cominciare da qui, Lucio. Grazie. E grazie anche dell'invito e grazie a tutti voi di essere qui. Jenny mi interessava perché era un dissidente, noi forse da parte del pubblico italiano siamo abituati a pensare l'altra parte di questa società, l'altra parte maggioritaria, il gruppo tedesco, come un gruppo coeso, compatto, unito. Non è così. Jenny era una figura dissidente, questo mi ha incuriosito fin da sempre, fin da quando lo seguivo come uomo politico. Mi piaceva appunto anche questo fatto citato da Gabriele, che fosse figlio di una coppia mista, figlio di una maestra italiana, lombarda, anche se nata in Argentina, e appunto di un foralberghese. Però avevo trovato, questo per rispondere alla domanda che non mi hai fatto, ma che mi hai detto perché questo libro, avevo trovato nel libro tedesco che ha pubblicato Jenny, mi sembrava che questa parte della sua storia, questa sua provenienza appunto da una coppia mista, fosse poco elaborata, e allora un giorno gliel'ho detto dopo aver letto il libro, e siccome lui era una persona molto spontanea, immediata, molto comunicativa, ci ha pensato un po' e poi mi ha invitato, mi ha detto beh, perché allora lo riscriviamo un libro. Sì, venendo all'Italia, avevamo deciso io e Gabriele, se non fosse morto ci sarebbe qui, lui, Jenny, aveva 86 anni, ma era molto sveglio, molto lucido, molto pronto di parola. Io farò quello che ho fatto nel lavoro con lui, cioè l'ho intervistato, ho registrato i nostri colloqui, li ho trascritti e poi li ho sottoposti, e quindi alla domanda che Gabriele mi fa, io rispondo leggendo quello che sono appunto le pagine del testo. L'Italia di oggi. Seguo con partecipazione la vita politica italiana, perché nonostante la mia appartenenza al gruppo linguistico tedesco, sono pur sempre un cittadino di questo paese ed è dovere dei cittadini informarsi per poter decidere con cognizione di causa. Non ho mai dimenticato nella mia vita di essere per metà un lombardo italiano, perciò ho sempre avuto un forte legame affettivo con l'Italia, dove vive tuttora un ramo della mia famiglia e dove ho avuto modo di conoscere e apprezzare moltissime persone. Da ciò che accade in Italia dipende anche la nostra realtà e dunque anche i sudtirolesi di lingua tedesca farebbero bene a interessarsi maggiormente di ciò che accade a sud di Salorno. Penso anche che l'autonomia di cui gode adesso il Sudtirolo sia uno strumento valido per rispondere sia sul piano istituzionale che su quello economico alle necessità della popolazione italiana. Detto questo, la situazione in Italia mi sembra preoccupante. Al di là degli avvenimenti politici degli ultimi anni, penso che l'Italia stia scontando un problema che non ha mai risolto, quello della sua unità. L'unità d'Italia non esiste, se non come finzione retorica. L'ho sentito ripetere spesso da mia madre, fin da quando ero bambino. Da adulto ho appreso molte altre cose che confermano questo giudizio. Ci sono troppe differenze e disuguaglianze tra nord e sud, nell'economia, nella cultura, nella coscienza pubblica, nel modo di intendere e gestire il potere. Allo stesso tempo l'Italia si è data una struttura centralista, come se si potesse amministrare dal centro un paese così eterogeneo e incoerente. L'unità d'Italia ha retto fino a quando le dinamiche nazionali pesavano più di quelle internazionali, ma con l'avvio del processo di integrazione europea, l'apertura delle frontiere e la globalizzazione, il nodo è venuto al pettine. Oggi ogni impresa deve fare i conti con la concorrenza internazionale, mentre anche sul piano politico gli stati nazionali cedono potere verso l'alto, cioè verso l'Europa. Il settentrione d'Italia sembra più preparato del meridione ad affrontare questo processo. Ampie zone del sud sono di fatto in mano alla criminalità organizzata. Gli investitori privati sono scoraggiati dall'impegnarsi in queste aree per la scarsa efficienza dei servizi e perché nell'assegnazione e nella gestione dei lavori prevalgono criteri burocratici, mentre il merito gode di ben poca considerazione. O peggio ancora, dominano pratiche mafiose come quando ti consigliano di assumere questa o quella persona, di pagare tangenti ai partiti o il pizzo a qualche clan. Sono condizionamenti che un'economia efficiente non può sopportare. La scarsa tenuta unitaria dell'Italia è emersa in tutta la sua drammaticità a partire dagli anni 90. Si può ridere o rimanere preoccupati per le esternazioni grossolane di un partito come la Lega Nord, protagonista di continui attacchi al simulacro dell'unità della nazione, ma è indubbio che essa esprima un sentimento molto diffuso nel nord del paese, al quale i partiti tradizionali non hanno saputo dare risposte. Se non fosse così, gli abitanti dei quartieri popolari delle città lombarde non voterebbero in maggioranza per il carroccio di Umberto Bossi. Posso andare avanti? Solo una parte ancora. Un'analisi sconsolata, dico io, il passato è quello che è, d'accordo, ma d'altra parte non possiamo rassegnarci a concludere che non c'è nulla da fare. Non ci sarà nulla da fare, risponde Jenny, fino a quando l'Italia, i suoi rappresentanti politici, la sua classe dirigente, gli intellettuali, coloro che insomma formano l'opinione pubblica, continueranno a rifugiarsi nella retorica e nell'ideologia. Questi mi sembrano davvero i mali più profondi del paese. In tedesco si dice schön reden, che potrei tradurre abbellire la realtà con le parole. Si tratta di un'abitudine assai dura a morire in Italia. Fu il fascismo a diffonderla con il suo vanaglorioso apparato di raduni, manifestazioni, celebrazioni e quant'altro. La ricordo bene la retorica dei professori della scuola del ventennio. Esaltavano la prima guerra mondiale come il compimento del processo risorgimentale, laddove né il risorgimento né la grande guerra furono in effetti quel movimento di popolo che vorrebbero farci credere. Celebravano i 600.000 morti, ma si guardavano bene dal dire che vi erano stati anche 300.000 disertori nell'esercito italiano, braccianti meridionali destinati al macello della guerra per degli ideali che essi non condividevano affatto. La retorica come arte di abbellire la realtà con le parole è continuata nel dopoguerra, presentando un paese che si voleva libero e democratico ma che in realtà era dominato dai centri di potere tradizionale, la Chiesa Cattolica, un partito a forte vocazione confessionale come la Democrazia Cristiana, i gruppi di interesse economico e finanziario. Anche la sinistra è stata tutt'altro che immune dal vizio nazionale della retorica. fino agli anni Ottanta la sua influenza è andata costantemente crescendo, ma i suoi esponenti non hanno saputo dare ad essa un indirizzo realistico e pragmatico. Troppo a lungo la sinistra italiana, mi riferisco soprattutto al Partito Comunista, si è ispirata al modello dell'Unione Sovietica e solo un anno dopo il crollo del muro di Berlino ha trovato il coraggio di avviare un processo di trasformazione in senso socialdemocratico. Gli intellettuali italiani, buona parte dei quali era sedotta dall'ideologia marxista, non si sono interrogati a fondo sul passato e sulle prospettive dell'Italia. Come è nato il fascismo? Come si spiega il consenso pressoché unanime che esso ebbe? Quali crimini ha commesso? Come possiamo contrastare il pensiero totalitario, ogni forma di pensiero totalitario, e rafforzare la democrazia? Porsi queste domande è un dovere per un paese che voglia progredire. La Germania, stimolata dalla sua classe intellettuale e da alcuni politici di grande statura, ha cercato di farlo. A partire dagli anni Sessanta i giovani hanno cominciato a chiedere ai loro padri che cosa avevano fatto durante il Terzo Reich. Willy Brandt, il cancelliere tedesco, andò in Polonia nel 1970 a inginocchiarsi davanti al monumento al ghetto di Varsavia. Ebbe il coraggio di ammettere la responsabilità del suo popolo nella tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Non si rifugiò dietro l'antinazismo ufficiale e neppure dietro la sua storia personale, perché Brandt era stato esule durante l'epoca nazista, uno dei pochi, avrebbe avuto tutte le ragioni per dire che lui con quel sistema non aveva avuto nulla a che fare. Invece fece la scelta più difficile, ma anche quella più seria: riconoscere le responsabilità del suo paese, impegnarsi a evitare che si possano ripetere. Se le cosiddette forze progressiste italiane avessero agito in questo modo, avrebbero dato il loro contributo al risveglio delle coscienze dall'abbaglio del totalitarismo. Invece esse hanno lavorato per una dottrina altrettanto autoritaria, opponendo al fascismo e al comunismo e facendo della riflessione critica sul passato uno strumento di lotta politica. È in questo senso che Montanelli diceva: l'Italia ha avuto due fascismi, il fascismo e l'antifascismo. No, dice Montanelli. Come dire, io speravo in un assaggio, invece tu ci hai subito offerto un piatto estremamente indigesto, come all'inizio. Allora, a me interessa in qualche modo cominciare a muovere questi quadri, no? Queste sono parole molto amare di una persona che, vorrei che si capisse questo, parla dell'Italia sicuramente dall'esterno, ma con un trasporto ed una partecipazione sicuramente diversa da chi dice sono affaracci loro, fondamentalmente. Questo secondo me è molto importante tenerlo presente, perché credo che chi osserva il discorso pubblico sul tirolese non possa non notare come spesso noi ci dividiamo in modo netto sulle questioni maggiormente legate all'identità, per cui o ci sono quelli che dicono non me ne importa nulla e non voglio avere a che fare con ciò perché non sono io, oppure ci sono quelli che invece si identificano troppo e non riescono ad avere nessun tipo di autocritica nei confronti di se stessi, perché sono, diciamo, non riescono ad avere la minima distanza, quindi o una massima distanza o un'aderenza totale. Lui, che sfrutta questa sua, diciamo, identità più complessa, se vogliamo, riesce invece ad avere la giusta distanza, ecco, la giusta distanza, e quindi uno sguardo sicuramente molto critico, molto severo, ma non certamente impartecipe. Io, mentre leggevi, è venuto in mente una citazione molto più breve di quella di Lucio, e quando nel libro in tedesco Politische Leitgedanken, cioè le riflessioni politiche, quelle guida, i principi politici forse a cui lui decideva di attenersi, dice, leggo in tedesco, poi eventualmente traduco velocemente: ich möchte noch hinzufügen, dass die italienische Öffentlichkeit der Provinz die immer noch stark von nationalistischen Vorurteilen geprägt ist, wenig von den Südtiroler Mitbürgern weiß und sich auch kaum dafür interessiert. Es herrscht in diesen Kreisen noch eine kolonialistische Mentalität, die dazu führt, dass die lokale Italiener selbst nach längerem Aufenthalt in der Provinz dem Land völlig fremd bleiben. Penso questo sia musica per le orecchie di Lucio. No. Ma questo senso che... Scusa Gabriele, si è capito, lui dice sostanzialmente che la popolazione sul Tirolo, la popolazione italiana, la madrelingua italiana qui continua a sentirsi estranea, insomma, è ancora in buona parte dominata da un pensiero nazionalista, a riferimenti nazionali alla nazione e a non avere radici qui, ecco, questo è quello che lui dice. Sì. Cioè non è che è musica per le mie orecchie, Gabriele, è che io penso che purtroppo, non è che mi faccia piacere, però penso che purtroppo sia una condizione effettivamente molto diffusa, ecco. Allora, ma io voglio arrivare al punto. Questo sguardo, diciamo, complesso, no? Si guarda la realtà italiana, la si critica, poi vedremo che lui critica anche la realtà locale, ecco, appunto, no? Cioè un prisma, non è un monolite, non è il classico, diciamo, appartenente all'establishment tedesco che dice gli italiani sono una massa di inconcludenti, mentre noi, ecco, questo noi in lui è sempre molto complesso, è sempre un noi estremamente avvolgente, quindi critica, quando critica gli italiani, cioè, si sente anche per certi versi un rammarico, cioè se avessero partecipato di più sarebbe andata meglio, così come io partecipo con dolore forse alle vicende nazionali italiane vedendo questo spettacolo, sarebbe stato bene che gli italiani avessero partecipato alle vicende della provincia, avremmo avuto forse uno sviluppo diverso. Allora io qui, tanto per cominciare a chiarire la biografia, come nasce questa identità complessa? Perché, attenzione, noi abbiamo, e questo io vorrei proprio cercare di metterlo in luce, se uno legge il libro viene fuori, noi abbiamo conosciuto un modello forte di proposta integrativa dell'identità, che è quello di Alexander Langer e dell'interetnicità. Lui si distacca in modo netto da questa proposta, però chiaramente non difende neanche l'altro principio, quello della divisione. Allora, non difende il principio della divisione, lo critica, ma nemmeno diventa un sostenitore della prospettiva interetnica. Per cui riuscire a capire in che cosa consista la sua proposta politica è un po' il compito di questa serata, dei prossimi 35 minuti. Detto questo, come nasce la sua identità complessa? Cioè, da dove viene la sua identità tedesca? Perché lui pensava di essere fondamentalmente un tedesco, e anche qui tedesco, proprio tedesco, austriaco, no, proprio lui diceva tedesco fondamentalmente, tedesco, non austriaco. Sarebbe molto interessante vedere tutta questa storia della siamo una minoranza austriaca o tedesca, perché ci sono stati dei passaggi incredibili. Durnwalder oggi con grande nonchalance dice noi siamo una minoranza austriaca. Beh, insomma, lui si è dovuto battere quasi tutta la vita per anche affermare questo, perché fondamentalmente Magnago non avrebbe mai detto una simile cosa. Magnago, lo ripete spesso, non dice mai siamo una minoranza austriaca, dice siamo una minoranza tedesca. C'è una differenza probabilmente grande, molto più grande di quanto sembra semplicemente dicendolo. Ma lui diceva io ho un'identità precisa, nonostante abbia mia madre, sua madre l'ha influenzato molto. Come nasce questa identità precisa in un contesto in cui apparentemente uno dovrebbe rifiutare un'identità precisa? Con mia madre parlavo sia in italiano che in tedesco e qualche volta anche in francese. Mia madre diceva sempre, questa era la sua idea, che ognuno deve avere una sua identità. La tua, aggiungeva, è austro-tedesca, tu sei uno Jenny e tale devi rimanere. Già il nome che aveva scelto per me era un segno di questa sua determinazione. Infatti Egmont irritò parecchi nazionalisti italiani, non solo durante il fascismo. Mi ricordo un'animata discussione con un gerarca fascista che sosteneva «Egmont non esiste, come ti chiami in italiano?» «Mi chiamo Egmont, non ci posso fare niente se il mio nome in italiano non esiste», risposi. «Invece credo che un corrispondente ci sia, Aimone», anche se io non ho mai incontrato una persona che si chiamasse così. C'è un Savoia che si chiama, sì, Savoia. A Lana, il paese dove viveva, vivevo con i miei amici in un mondo esclusivamente tedesco. Nessuno di loro mi considerava uno straniero, anche se mia madre era conosciuta come un'italiana, la gente diceva «Eine Italienerin, aber», e quel «aber», quel «ma», voleva significare che si trattava di un'italiana molto diversa. Infatti lei mise sempre in chiaro la differenza che esisteva tra italiani fascisti e italiani non fascisti, e se qualcuno in sua presenza parlava male degli italiani, lei ci teneva che le cose venissero messe in chiaro. Purtroppo a quell'epoca di italiani non fascisti in Sud Tirolo ce n'erano pochi. Con questi suoi connazionali la mamma ebbe spesso degli scontri verbali violenti. Quando veniva accusata di scarso patriottismo rispondeva: «Siete voi che col vostro comportamento fazioso e intollerante rendete un pessimo servizio all'Italia. La gente tedesca vi odia». Lei invece era stimata e ben voluta dalla comunità sudtirolese. Ancora oggi molti tra i suoi scolari di un tempo la ricordano con affetto. Mi dispiace che il comune di Lana non abbia mai dato un riconoscimento ufficiale a questa donna italiana così coraggiosa e anticonformista in un periodo difficile. Conservo un altro ricordo della mia infanzia che ha a che fare con la questione della mia identità. Passavo l'estate al mare nella villa dello zio Luigi, un fratello di mio nonno che aveva venduto la sua azienda a Milano e si era trasferito a Sestri Levante. Era un uomo oltre i 60 che parlava poco e viveva da solo, accudito da una donna del posto. Mi lasciava molta libertà, con l'unico obbligo di presentarmi puntuale a mezzogiorno a tavola sotto il bel pergolato dietro alla casa. Un giorno, mentre eravamo a tavola, dopo avermi fissato qualche secondo con sguardo perplesso, se ne uscì con questa frase: «Ma io non so se tu sei un italiano». Rimasi molto colpito, ma non riuscii a rispondergli nulla. Avevo 11 anni e francamente non mi sentivo italiano. Bene. Quindi lui ha, se posso aggiungere, non so se è previsto di parlare di quelle pagine di Langer, dove lui parla di Langer. No, non so, guardiamo. No, perché lui su questo ha, perché in effetti questa è una cosa che mi interessava molto, perché essendo lui, ripeto, figlio di una coppia mista, com'è che d'altra parte fosse poi così, era decisissimo, dice, ci si dichiara. Lui ebbe degli scontri molto duri con Alexander Langer, che allora nel 1980-81 contestava fortemente la dichiarazione di appartenenza al gruppo etnico. Lui dice: ma se io sono rappresentante di una minoranza mi dichiaro, che male c'è? Cioè non vedeva in questo atto diciamo tutta quella carica negativa dello schierarsi, del dividersi, del fare gruppo, del fare fronte contro un altro fronte, che invece vedeva Langer. Poi diceva, e in questo era originale, poi diceva che l'identità era qualcosa di mobile, di dinamico. Cioè lui diceva: se io avessi avuto una madre di un'altra natura, di un'altra indole, forse sicuramente sarei diverso. Cioè l'identità non è scritta nel sangue, non è impressa in noi come un marchio che non possiamo cambiare, del quale non possiamo mai, è un processo dinamico. Però se io scelgo di far parte di una minoranza, lui diceva, non c'è nulla di male, e questo, ripeto, lo differenziava molto da un altro grande dissidente della società sudtirolese locale, appunto Alexander Langer. Non c'è nulla di male nel dichiararsi anche nominativamente, anche con il proprio nome, appartenenti a questa minoranza. Senti, allora cerchiamo di capire l'originalità della sua proposta politica, e che è difficile da, come dire, enucleare, proprio perché sta in mezzo a due vulgate, a due versioni sulle quali più abbiamo riflettuto, no? Cioè, appunto, o l'integrazione, la progettazione, diciamo, di un uomo nuovo, molto, molto affascinante. Io, per esempio, sono molto affascinato sempre ancora da... Speriamo bene. Dell'integrazione dei gruppi linguistici fino a dare origine a un'entità sintetica, non so come chiamarla, entità sintetica, in cui l'identità sia veramente qualcosa di marginale o di nuovamente definito. Noi abbiamo presentato qualche tempo fa il libro di Fight Factor contro i miti etnici, dove c'è una sorta di, non so se l'avete letto, di attacco frontale al, allo stesso principio di identificazione, cioè di potersi identificare con qualcosa e coltivare un racconto personale che poggi su delle mitologie, viene attaccato e si fa, si cerca di fare piazza pulita di questo. Lui non va in quella direzione, ma non va neanche nella direzione, perché sta male all'interno di un partito che invece sul riconoscimento della specificità etnica ha giocato tutte le sue carte. Dove si colloca? Cioè, perché nasce questo partito socialdemocratico e non ha molto successo? E cosa dice questo partito? Cioè, qual è la sua proposta alternativa di sviluppo della società sudtirolese? A proposito del suo partito, la Fortschrittspartei, preferisco partito sudtirolese per il progresso sociale, è più preciso anche se è un nome più lungo. Non ci sembra opportuno usare fin da subito la definizione partito socialdemocratico, benché quel termine comparisse in più punti del nostro programma. Vi si leggeva tra l'altro di Soziale Fortschrittspartei Südtirol bekennt sich zu den Grundsätzen des demokratischen Sozialismus, cioè il partito si riconosce nei fondamenti del socialismo democratico. Realizzando quei principi, aggiungevamo, si potevano superare i conflitti di natura nazionalistica che minacciano la libertà in Sudtirolo e altrove. Sapevamo però che lo stesso termine socialdemocrazia era oggetto di una vera e propria campagna di discredito da parte di ambienti molto influenti. Ciò ci indusse a rinunciare a quel nome. Forse fu un errore, un'inutile prudenza, non ci risparmiò l'accusa da parte del mondo sudtirolese di essere dei rossi, sia pure travestiti, e non contribuì ad affermare il principio che non vi è nulla di male nell'essere socialdemocratici. Avremmo dovuto fare come Kreisky in Austria, che sottrasse il partito cambiando il nome da socialista in socialdemocratico all'ipoteca marxista e al sospetto di fare da sponda al comunismo. Evitammo la definizione socialdemocratico anche perché pensavamo di poter raccogliere significativi consensi tra i liberali, ai quali doveva pur stare a cuore la pluralità di opinioni. Oggi sorrido di quell'aspettativa, perché liberali veri ce n'erano assai pochi in Sudtirolo. Non mancavano, è vero, i borghesi, ma questi, fiutati gli svantaggi di stare all'opposizione rispetto alla Südtiroler Volkspartei, preferivano le ali protettrici del partito di maggioranza e si curavano poco degli ideali di libertà, emancipazione, crescita sociale, che pure appartengono storicamente all'ideologia di quella classe. La Soziale Fortschrittspartei diceva che la comunità sudtirolese doveva liberarsi dalla mentalità di chi si sente perennemente assediato e minacciato. È un clima che in parte si respira ancora oggi e che non pochi vorrebbero restaurare. Faceva sì che si vivesse come in una continua emergenza democratica, dove non c'era spazio per discutere e confrontarsi perché bisognava fronteggiare un nemico incombente. Allo stesso tempo, però, quella situazione era sfruttata da diversi gruppi di potere per i propri interessi. Al pari delle SVP, chiedevamo anche noi una vera autonomia per la provincia di Bolzano, che non doveva essere soggetta alla regione Trentino-Alto Adige, ma volevamo che quell'autonomia si realizzasse nel segno di una maggiore apertura culturale per tutta la società e non come la rivincita di una parte di essa. Nel sostenere questo non eravamo soli. Cominciavano a farsi sentire dopo la metà degli anni 60 giovani intellettuali nel mondo sudtirolese come Alexander Langer, Siegfried Stuffer, il poeta Norbert Kaser e altri, tutti molto impegnati e con grandi idee da spendere. Di lì a poco avrebbe visto la luce una pubblicazione come Die Brücke, il ponte, che già dice tutto nel titolo. Sembrava potesse avviarsi un rinnovamento di tutta la società locale su basi ben diverse da quelle dell'appartenenza a un gruppo etnico. Ci sforzavamo anche di guardare oltre i nostri confini, dando vita all'inizio degli anni 70 alla Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten im Alpenland, il gruppo di lavoro dei socialdemocratici nei paesi alpini, che voleva essere un luogo dove scambiare esperienze e idee. Fondammo il partito anche perché eravamo convinti che si potessero presentare a Roma posizioni diverse da quelle sostenute dalla Volkspartei. Ma i governi italiani, come avremmo dovuto aspettarci, non ci offrirono alcuna sponda. Evidentemente, se la Volkspartei si proponeva come l'unico interlocutore del governo, anche questo scelse la Volkspartei come suo interlocutore unico. Io stesso ne feci esperienza più volte andando in missione politica a Roma. Bene, qui si intravede con mi sembra molto, molto nitidamente questo sforzo concettuale di pluralizzare il mondo linguistico tedesco e di sottrarsi a questo riflesso condizionato del fare gruppo, del fare corpo continuo, che poi alla lunga appunto sarebbe stato un elemento di chiusura e di staticità. Adesso poi magari andiamo a vedere il suo giudizio sulla politica attuale, su come lui giudicava per esempio Durnwalder. Ci sono delle pagine dedicate a questo, quindi come lui giudicava fondamentalmente dalla sua istanza critica iniziale, se anche adesso, se tuttora abbiamo lo stesso problema oppure no, si è mitigato. Però prima di arrivare a quel punto, se mi consenti, e se io ho capito bene anche la sua idea di fondo, soprattutto maturata attraverso la vicinanza con Kreisky, ma anche con intellettuali come Gatterer, lui era uno che giudicava, per esempio, in modo positivo, in modo interessante, un quadro di riferimento più ampio rispetto al Sudtirolo, ovvero allargato al Trentino e al Tirolo del Nord, cioè quindi un'idea, diciamo, di vecchio Tirolo, spazio più ampio in cui le popolazioni anche numericamente avevano, quindi il discorso della maggioranza e della minoranza sarebbe stato soprattutto transnazionale, perché lui rimane in lui sempre radicale la lotta al nazionalismo. Ma allora, nel recuperare questa visione di un Tirolo storico transnazionale, che non doveva diventare una nuova nazione, ma doveva in qualche modo favorire maggiori scambi tra una parte e l'altra, riappropriarsi della propria storia, la regione, per esempio, lui non voleva svuotarla, si è sempre battuto affinché la regione non diventasse questo contenitore vuoto in cui non si fa più niente, ma diventasse un laboratorio, diciamo, di avvicinamento, di riavvicinamento tra le parti storiche del Trentino. Mi sembra che sia una proposta sciaguratamente lasciata cadere in quegli anni, dove l'autonomia si è sviluppata tutta sul binario, diciamo, della collaborazione tra l'SVP e la Democrazia Cristiana, e invece però fondando una sorta di microstato come il nostro, e invece la sua idea era quella di allargare i confini nel vero senso della parola, cioè di renderli più evanescenti. Per cui c'è questo rapporto tra Sud Tirolo e Austria che secondo me potrebbe essere interessante mettere a fuoco prima di vedere come lui giudicasse alla fine la nostra era, la nostra epoca. L'Austria ha sempre aiutato in ogni modo i sudtirolesi e ha pienamente assolto al suo compito di potenza tutrice della minoranza. Più difficili furono invece i rapporti dei sudtirolesi con l'Austria, specie nell'immediato dopoguerra. Nella popolazione sudtirolese il ricordo del Tirolo storico plurinazionale era stato cancellato dal nazionalismo pantedesco, che si affacciò prepotentemente sulla scena europea nella seconda metà dell'Ottocento. Questo nazionalismo, impersonato dai cosiddetti Deutschnationalen, era soprattutto rivolto contro lo Stato asburgico, di cui finì per minare le basi. Invano il governo di Vienna cercò di venire incontro alle legittime aspirazioni dei sudditi italiani dell'impero, le animosità dei rispettivi nazionalismi ebbero sempre la meglio. Così naufragò per il veto dei pantedeschi il progetto di un'autonomia particolare per il Trentino. Nel 1904, siamo evidentemente nel periodo precedente l'annessione, nel 1904 l'apertura di una facoltà di legge in lingua italiana presso l'università di Innsbruck diede luogo a un'insurrezione popolare voluta dai pantedeschi, che ebbe accenti sciovinisti e provocò un morto. Il progetto di un'università italiana nel territorio dell'impero venne definitivamente abbandonato. Sono queste alcune delle tristi tappe che portarono infine alla Prima Guerra Mondiale, allo smembramento dell'impero danubiano e conseguentemente del Tirolo storico. Questo processo comportò anche una falsificazione della storia messa al servizio della propaganda pantedesca. L'esempio più eclatante è proprio l'insurrezione contadina dei tirolesi contro l'amministrazione bavarese, cioè tedesca, del 1809, un passaggio descritto come un sollevamento popolare contro Napoleone e i francesi. Andreas Hofer, fedele suddito del Kaiser asburgico, venne tramutato in un eroe pantedesco al servizio della nazione tedesca. All'epoca delle opzioni, nel 1939, l'infatuazione pantedesca aveva fatto passi da gigante, diffondendo tra l'altro un equivoco tragico per i sudtirolesi, i quali finirono per credere che optare per la Germania nazista fosse un atto di fede nazionale. Quando nel 1964 venne eletto in Consiglio regionale, assumendo un ruolo politico di un certo rilievo, il giornalista Klaus Gatterer mi invitò a interessarmi più da vicino alla storia del Trentino. Così scoprii che in Trentino la memoria dell'Austria asburgica era molto più presente che in Sudtirolo. Fino alla metà degli anni 50 i sudtirolesi preferivano guardare più verso Monaco che verso Vienna, e la potenza finanziaria del marco tedesco consolidò questo loro atteggiamento. Solo nel 1955, dopo la firma dello Staatsvertrag che sancì la fine dell'occupazione straniera, l'Austria, divenuta nuovamente sovrana, poté far sentire la sua voce sulla scena internazionale. In questo nuovo contesto anche in Sudtirolo si cominciò a guardare con interesse all'appoggio che poteva venire da Vienna, ma lo sguardo verso l'Austria era strabico. Si contava sull'Austria cattolica e popolare, mentre quella laica e socialista fu sempre considerata con diffidenza dai gruppi dirigenti sudtirolesi. Questa posizione era evidente durante gli anni in cui la socialdemocrazia e Kreisky giocarono un ruolo importante nella politica austriaca, vale a dire fino al 1966, quando il governo di coalizione popolare socialista fu sostenuto da un monocolore guidato dal popolare Klaus. In quei giorni Kreisky fu anzi dichiarato persona non gradita in Sudtirolo, dove avrebbe dovuto venire a tenere una conferenza. Il veto alla sua venuta venne posto dalla dirigenza SVP e la DC, tramite i suoi canali diplomatici, badò a che venisse messo in atto. Eppure proprio del ministro degli esteri socialdemocratico Kreisky il successo più importante della storia contemporanea, cioè l'iscrizione della questione sudtirolese all'ordine del giorno dell'Assemblea delle Nazioni Unite. Appoggiarono la richiesta austriaca a molti paesi del terzo mondo che in quegli anni avevano conquistato la loro indipendenza. Dimostrando poca sensibilità e forse qualcosa di più grave, la SVP se ne uscì in quell'occasione con un documento nel quale affermava che, citazione, virgolette, gli ultimi negri, chiuse virgolette, godono di una tutela migliore di quella riservata ai sudtirolesi. Kreisky si arrabbiò molto per quella gaffa e non tardò a ricordare che era proprio grazie al sostegno degli ultimi negri che la voce dei sudtirolesi aveva potuto trovare ascolto all'ONU. Sì, questa cosa degli ultimi negri è straordinaria, però la dice abbastanza lunga, no? Cioè anche questo vizio di non vedere, siamo partiti dal discorso più attenzione all'Italia, non vedere che il Sudtirolo si muove in un contesto largo, diciamo, non è centrato su se stesso, vive in una dimensione di interdipendenza con realtà che possono essere considerate o non considerate, ma agiscono e qualche volta addirittura vengono in sostegno della causa sudtirolese, come nel caso appunto del movimento di liberazione dalla stagione del colonialismo. Gli ultimi negri sono decisivi con i loro voti per salvare o quantomeno per mettere di fronte all'assemblea dell'ONU il Sudtirolo in una veste migliore e più proficua. Critica quindi culturale, di tipo culturale, di ritardo culturale alla SVP. Mi sembra questo poi il nodo fondamentale, cioè la SVP ha costruito un'autonomia di tipo amministrativo, un elefante amministrativo, ma un topo culturale fondamentalmente, o quantomeno, beh, insomma. Sì, lui non lo dice, ma penso che l'avrei potuto sottoscrivere. Sì. Cercavo un'immagine, ma per dare più, come dire. Io non racconterei oggi che abbiamo fissato la capitale della cultura anche nel nostro tempo. Sì, ma guardiamo adesso, poi sviluppiamo adesso, guardi, io tengo d'occhio l'orologio e lui vedete tra un quarto d'ora diamo la parola sì. Abbiamo deciso di fare un'ora nitida accademica e poi dopo diamo la parola agli interventi che speriamo di star suscitando. No, mi interessava adesso sentire le parole di Jenny sulla, anzi faccio la domanda che ha fatto Lucio a lui. Mezzo secolo fa, come lei ha ricordato, i sudtirolesi erano gente povera. Oggi c'è un diffuso benessere, non basta come conquista sociale, cioè quindi il giudizio a pagina 128. La sua critica fondamentalmente alla SVP viene fuori da questo, cioè abbiamo raggiunto il benessere, abbiamo raggiunto una società ricca, perché non è contento? Perché non si accontenta di questo? I progressi economici, sociali, culturali della società sudtirolese sono evidenti, sarebbe sciocco negarli. Va riconosciuta la validità dell'azione politica della SVP che ha dimostrato di sapere ben gestire il potere per il Sudtirolo e per se stessa. La Volkspartei ha saputo conquistarselo giocando sulla problematica dell'autodeterminazione. Prima l'ha agitata, poi ha rinunciato ad essa in cambio di consistenti concessioni da parte del governo. Per questo intendo non solo le competenze previste dallo Statuto di Autonomia per la provincia di Bolzano, ma soprattutto il monopolio della rappresentanza politica dei sudtirolesi che Roma ha assegnato alla Volkspartei. È grazie a questo patto che il partito SVP e la provincia di Bolzano sono potuti diventare un unico sistema. È vero anche che abbiamo una buona amministrazione alla quale si devono molti dei risultati raggiunti. Una delle grandi abilità della Volkspartei è di riuscire a presentare tutto ciò che di positivo è stato fatto in Sudtirolo come un suo merito. Fino ad oggi questa è la sua prassi, si inaugura un'opera pubblica, grande o piccola, e c'è sempre un assessore in primo piano a presentarsi come colui che l'ha resa possibile. Direi che la Volkspartei, nel mescolare il pubblico con il partitico, si è ispirata alla tradizione italiana, anzi mi sembra addirittura averla portata a perfezione. Anche il benessere di cui si parlava è in larga parte il frutto del sistema partito-provincia. I finanziamenti pubblici li gestisce la provincia, ma li controlla il partito, decidendo quantità e direzione dei flussi. Il fatto è che la mediazione nel segno della stella alpina non corrisponde a criteri di equità tra le varie classi sociali. L'esempio più eclatante sono i contadini, sono solamente il 5% della popolazione, ma la fetta di risorse destinate all'agricoltura nel bilancio provinciale è sempre stata superiore e di molto a quella percentuale. Adeguatamente considerati nella spesa pubblica e nelle leggi provinciali sono anche gli interessi di imprenditori, artigiani e commercianti, decisamente meno lo sono quello dei lavoratori dipendenti. Il Sudtirolo si vanta di avere ottimi standard e spiega così l'alto costo della vita. Ora, in una società cara, coloro che stanno peggio si trovano tra i lavoratori dipendenti che percepiscono uno stipendio fisso. Pensiamo ad esempio al costo delle case che hanno prezzi da località turistica e che sono quindi inaccessibili a chi vive di uno stipendio. Cosa hanno fatto la provincia e il partito per rimediare a questo squilibrio? Possono vantare in questo campo successi come quelli ottenuti per salvare i contadini di montagna? Il benessere c'è e in buona parte è meritato, ma esso non è equamente distribuito tra le diverse componenti della società. Chi non appartiene alle classi privilegiate, chi non ha da vendere mele, vino, pacchetti turistici, prodotti artigianali o industriali, tradizioni, servizi, insomma, chi non partecipa all'immagine pubblica del Sudtirolo, vive un'esistenza modesta e spesso difficoltosa. Gli stessi esponenti della corrente degli Arbeitnehmer, cioè lavoratori dipendenti nella Sudtiroler Volkspartei, non hanno mai cessato di denunciare questo squilibrio, anche se si sono ben guardati dal trarre le conseguenze che avrebbero dovuto. Benissimo, mi sembra anche qui un'analisi estremamente lucida. Io adesso ho due possibilità, o una forse, perché come nei concerti, no? Che poi ci teniamo il bis, perché le cose che dice su Durnwalder sono anche abbastanza divertenti e forse vale la pena ascoltare il suo giudizio, diciamo, sull'oggi. Però io, anche se diciamo, vorrei farti una domanda a te più che cercare le parole sue, quindi l'idea che tu ti sei fatto intervistandolo, e l'immagine che viene fuori poi alla fine, cioè il distillato propositivo di questo, della sua proposta, così come è diventata nel tempo, no? Secondo te lui cosa si augura? Cioè quali spazi ancora di sviluppo vedeva? Queste sono istanze critiche, no? Cioè lo vedevi come una persona rassegnata, ma una persona che ancora coltivava un sogno, ecco. Cioè aveva ancora un sogno di sviluppo praticabile e individuava delle linee lungo le quali si potesse marciare per arrivarci, oppure non lo so, viene fuori un po' di commestizia, questa sorta di sutirolo alternativo, una volta che non è sbocciato ormai siamo condannati a non avere più cambiamenti e a vivere, diciamo, di quello che abbiamo per sempre, o quantomeno finché non intervengano cause esterne, ecco, cause esterne che ci obbligano a cambiare. Secondo te lui come la vedeva questa storia? No, diciamo la mestizia, la rinuncia, la cosa non facevano parte del suo carattere proprio, e quindi non li aveva neanche a livello politico. Il fatto che seguisse molto, seguiva molto, continuava anche a scrivere, proprio la politica, gli avvenimenti politici, è pur sempre segno del fatto che un qualche auspicio, ecco, diciamo così, lo aveva. Tra il resto, adesso chi poi leggerà il libro, anzi approfitto per dirne che l'editore è qui con alcune copie, chi vuole poi può acquistarlo dopo la serata. Lui ha anzi una visione positiva. Lui, per esempio, noi abbiamo letto quelle pagine all'inizio sull'Italia che sono molto forti, molto dure, però lui per esempio sulla comunità italiana in provincia di Bolzano aveva delle visioni, delle aspettative buone. Diceva che la situazione, da quello che gli permetteva di giudicare la sua parabola, la sua vita, lui è nato nel 1924, quindi ha vissuto da ragazzo tutta l'epoca fascista e poi da giovane uomo gli anni 50, 60, la lotta per il pacchetto, eccetera, la situazione è andata migliorando, questo lui lo diceva, e poi credo, per come lo conoscevo io, lui era una persona ottimista anche caratterialmente. Tra l'altro c'è qui il suo figlio Egmont, che saluto e ringrazio di essere venuto, se dopo vuole ci può dire qualcosa anche lui sugli aspetti così anche più personali, caratteriali del papà. A me quello che affascinava era che, essendo un uomo, diciamo, che in un certo senso aveva vissuto una sconfitta, cioè lui politicamente aveva perso, perché lui aveva iniziato una militanza politica nella Volkspartei, è stato estromesso dalla Volkspartei, ha fondato un proprio partito, con questo partito è stato eletto due volte, però si è spenta questa proposta socialdemocratica per un Sudtirolo socialdemocratico, si è spento. Però chi perde poi ha un grande vantaggio da un certo punto di vista, perché può dire la verità, o può dire, non la verità, può dire quello che pensa, può dire la sua verità, senza bisogno di difendere più nulla, insomma, né le proprie ideologie, né nel proprio passato, né... E io credo che lui in questo libro ci sia riuscito, anche perché parla per esempio con molto disincanto anche di se stesso, della sua esperienza politica. La giudica anche per certi versi anche un po' come dire velleitaria, presuntuosa, eccetera. Io volevo aggiungere una cosa a questo riguardo e poi se sei d'accordo dar la parola, visto che certo, abbiamo completato certo. L'ora, volevo dire una cosa di metodo per capire un fenomeno. Questo ce lo insegna la filosofia più avvertita. È utile guardare i margini, come dire, se uno fa una fotografia di un ambiente, per capire anche il centro è sempre bene guardare i margini. Questa è una figura marginale, se vogliamo, però grazie alla sua marginalità, grazie alla sua intrusione in un sistema che è andato in un'altra direzione, è utilissimo sia per capire il sistema nella sua costitutività, ma anche per capire, io torno a dire, quelle che sono state le possibilità abortite, ma che non vuol dire che siano possibilità estinte, sono dei germi, dei semi cioè sono stati messi, ghiacciati, cambiando la temperatura posso eventualmente portare a fiori inaspettati. E quindi l'utilità di questo libro non è affatto soltanto storico, nel senso guardiamo come andavano le cose, ma ha un valore assolutamente prospettico, di sguardo in avanti. E questo non lo diciamo solo perché è costume dirlo quando una persona muore o non c'è più. Questo veramente, io ho letto che lui era un grande amante di Stefan Zweig, di Welt von Gestern, del mondo di ieri. Beh, insomma, il suo mondo non è un mondo di ieri, ma è un mondo possibilmente di domani. Vero? Sì, vero. Su questa assoluta visione comune che abbiamo io e lui, è rarissima. Diamo la parola. Certo. Sì. Se c'è qualcuno. Poi abbiamo il figlio, poi io non lo conosco. Sì. Egmont. Allora, il figlio. Noi li ascoltiamo. Io potrei fare un'osservazione, ma un'osservazione che viene dalla mancata lettura del libro. Io ho conosciuto molto bene, come è capitato a tanti che sono in politica, Edmond Jenny. E quando Lucio era un giovinetto e noi avevamo uno strumento di analisi politica formidabile che credevamo inarrivabile, assolutamente assoluto, prima che ci sorgesse il dubbio, avevamo pensato che l'opposizione alla Volkspartei, una volta appagato la necessità del partito di raccolta, che la popolazione sudtirolese fosse unita in un unico partito, perché doveva difendere qualche cosa, sarebbero scoppiate le contraddizioni di classe. Così pensavamo allora, tu eri un ragazzino piccolo e io ero un pochettino più stagionato. Poi ci siamo accorti che questo forse sarà vero nel lunghissimo tempo, ma per ora quello non è avvenuto. E anche noi abbiamo ripiegato a vedere cosa succedeva e abbiamo visto gli enni anche la volontà di essere costantemente in minoranza. Abbiamo avvertito che dal partito di raccolta sono uscite all'inizio gli enni sulla sinistra, Dieter certamente non era di sinistra, e poi successivamente le uscite anche traumatiche dalla Volkspartei sono tutte state sulla destra. Così, a spanne. E quindi abbiamo ritenuto che valeva la pena condurre a fondo il processo pensando che le contraddizioni avrebbero fatto scoppiare maggiori identità legate alle condizioni economiche, alle condizioni della vita all'interno della, e avrebbero anche questo costituito le forze politiche da essere all'interno del governo locale. Per quello che riguarda il contatto nazionale, è stata un po' la malattia di Jenny, quello di pensare, anche in un momento particolare, 30 anni di terrorismo. Abbiamo avuto 30 anni di terrorismo e quindi sottoposti anche a sollecitazioni molto pericolose che lo Stato centrale potesse sostenere frammentazioni della stessa Volkspartei. E questo è stato considerato a livello nazionale pericoloso, un intervento dall'esterno. Ho avuto occasione di parlare personalmente con quelli che avrebbero potuto decidere una cosa, è stato considerato politicamente non accettabile e scorretto. E per questo anche con le sollecitazioni è rimasto minoranza. Io l'ho conosciuto molto bene e anche lui aveva i suoi pallini, era un socialdemocratico. Allora, quando tu eri ragazzino e io ero invaso dal furore marxista, lo consideravamo socialdemocratico. Però per Jenny, verso altri socialdemocratici, adoperavamo il termine socialdemocratico, calcando sul socialdemocratico. Con Jenny avevamo un occhio di riguardo, e difatti ci ha regalato la sua amicizia, sia con rappresentanti del nostro partito. Io ricordo proprio per il tipo di familiarità che avevamo. Una domenica o un sabato siamo andati al Guncina, un albergo che sta sul Guncina, perché c'era un grande matrimonio di una ragazza del PC che si sposava, e allora tutto il gruppo dirigente del PC locale era al matrimonio, e è venuto anche dal centro del partito al Guncina, è venuto Giuliano Pajeta, e discutevamo a tavola. Giuliano Pajeta è stato all'interno del lago di Mauthausen, e Jenny faceva il discorso che ho sentito leggere sulla differenza fra il risultato politico o l'indagine politica o le decisioni politiche che sono avute in Italia rispetto all'Austria e alla Germania, e ha avuto l'inavvertenza di dire, per quello che riguardava Mauthausen, che i contadini che stavano attorno e quelli che abitavano le ville attorno a Mauthausen non si erano mai accorti di niente. È stata la rovina di un pranzo di nozze, perché Giuliano Pajeta veniva da lì, è saltato in piedi e diceva, e ha rovesciato tutti i piatti. Finimmo il pranzo, ma l'esclamazione di Giuliano Pajeta era questa: no, tu non puoi dire così, perché sono scappati da Mauthausen e i contadini li hanno riportati dentro col forcone. No, non puoi dire così, perché quelli che stavano attorno vedevano entrare uomini e uscire solo fumo. Ho l'impressione che sia stato, sono stati tanti, come puoi immaginare, sono stati tanti tanti anni fa, ho avuto l'impressione di non aver mai più incontrato in una situazione colloquiale Egmont Jenny, che era un amico. Però scusa Nello, se posso, io è strano che non me l'abbia raccontato questa cosa. Poi voglio dire, un gigante come Pajeta, Giuliano Pajeta, che è il fratello di Giancarlo. No, però volevo sentire la tua opinione su quella cosa che abbiamo letto, che è anche molto dura, che abbiamo letto all'inizio, quando lui lo criticava molto, diciamo, un certo antifascismo di maniera, lui lo criticava molto, non perché fosse mosso da intenti polemici eccetera, ma perché diceva, e poi ce lo ritroviamo in casa di nuovo, cioè se non facciamo del vero anti-autoritarismo poi ce lo ritroviamo in casa di nuovo. Tu tra l'altro sei il presidente dell'ANPI, e cioè io te la volevo fare anche professionalmente questa domanda, ma è corretto anche relativamente a noi, alla nostra situazione, simboli eccetera, cioè non è che abbiamo sbagliato qualcosa noi con questo, avremmo sbagliato anche tante cose con questa, per quello che riguarda i monumenti a Bolzano. Io sono informato, almeno da una leggenda metropolitana, che nel 1945, subito dopo chiuso il campo di concentramento di Bolzano, quindi dopo il 30 aprile, venivano dei camion delle formazioni partigiane delle altre regioni a portare via i deportati che rientravano dalla Germania, i deportati che stavano al campo, ma tutti quelli che sono rientrati dai campi, soprattutto dei Livi, ne sono entrati decine di migliaia, e le formazioni partigiane venivano con i camion a portarsi via quelli che appartenevano al loro territorio. E una di queste formazioni partigiane, ma è una leggenda metropolitana, la smentirò sicuramente domani, fece un'offerta ai bolzanini corrispondenti, dicendo che loro erano attrezzati e che avrebbero potuto ripulire dai segni del fascismo bolzano. E in quell'occasione i bolzanini, che già pensavano che cosa sarebbe dovuto avvenire dopo, dissero no grazie, perché a Bolzano il fascismo ha già fatto troppe macerie. Per quello che riguarda l'autocritica, è così. No, è una cosa un po' retorica, non so cosa voglia dire bene, ha fatto tante macerie, cioè... Non aveva fatto macerie, Bolzano era in preda ai bombardamenti. Bolzano nel 1945 era stata bombardata, c'era mezzo Bolzano distrutta. In questo senso il fascismo aveva già fatto troppe macerie, che oltre i bombardamenti che aveva provocato su Bolzano aveva messo 9.500 persone dentro nel lago di Bolzano. Questo era il senso. Però ripeto, è una leggenda metropolitana, per quello che riguarda l'autocritica che è stata necessaria, che veramente è ancora in corso. In effetti abbiamo fatto il mito abbiamo fatto un mito della resistenza combattuta, senza accorgerci che la resistenza è stato un fenomeno di massa che ha coinvolto il popolo, ma che ha coinvolto anche 650.000 italiani che hanno detto no al fascismo e al nazismo, che erano reclusi nei campi di concentramento di Sabaudia. E per lungo tempo la nostra retorica, quella della resistenza, della guerra guerreggiata, ha ignorato 650.000 italiani, al punto che il mio segretario del partito, che tu sai come si chiamava, non ha potuto stampare dall'editore Riuniti, se non dopo 20 anni, il suo libro su quello che aveva passato nel campo di concentramento. Evidentemente abbiamo bisogno di fare un esame di coscienza e di fare l'autocritica. E difatti l'autocritica che facciamo è che quando parliamo di antifascismo adesso, parliamo dei valori dell'antifascismo che un grande sacrificio ha messo nella Costituzione. Non ci rifacciamo al resto, alla necessità di opporsi a qualche cosa d'altro. Parliamo, che facciamo riferimento ai valori che la resistenza, il sacrificio della guerra, della deportazione, ha messo nella Costituzione. Questo è il nostro antifascismo, inteso come valore. Volevo capire un po' meglio il riferimento a Alexander Langer. Ci sono solo queste cose che hai letto, o forse il tema è più sviluppato all'interno del libro, cioè c'è un rapporto un po' più complesso che non la semplice faccenda delle gabbie etniche, sì o no, così, insomma. Anche senza che leggi, non so quanto tempo c'è adesso. No, ma piacevano le cose. Non mi ricordo dove sono, andiamo a dire se riusciamo a leggere cose che non abbiamo detto. Anche la cosa su Durnwalder era interessante. Leggiamo quella su Durnwalder. Ma su Langer comunque c'è un su Langer 180-183, sì. C'è un confronto abbastanza serrato, cioè tu lo incalzi e lui dice che non. Basta, ne leggiamo una molto breve, perché sì. Io gli dico: Langer creò parole d'ordine molto suggestive, come quella delle gabbie etniche che sono rimaste nell'immaginario collettivo di questa terra. E Jenny dice: io disapprovo nel modo più completo quella battaglia. Tra il resto, Langer fu mal compreso e in parte strumentalizzato da molti italiani che lo consideravano una sorta di ariete per dividere i tedeschi, tra virgolette. Non dico che questa fosse la sua intenzione, ma di fatto molti opinionisti e politici italiani ritennero opportuno appoggiarlo pensando a tal fine. Lui parlava di schedatura etnica, catasto etnico, eccetera, come se si stessero preparando le deportazioni. Vediamo la questione in un modo disincantato. Chi si ritiene parte di una minoranza ha il diritto e il dovere di dichiararlo ufficialmente, altrimenti in cosa consisterebbe questa minoranza? Forse nell'esistenza teorica di una cultura diversa? Non basta, la minoranza acquista un suo peso e una sua influenza se le persone che fanno parte di essa dichiarano la loro appartenenza ad essa. Non è orgoglio nazionalista, ma affermazione della propria identità. L'impero danubiano era multinazionale, tedeschi, boemi, slovacchi, croati, ungheresi, italiani, sloveni, serbi, eccetera. Le minoranze venivano censite e solo così potevano aspirare ad avere riconoscimenti e diritti. Se guardo alla mia esperienza personale, e questo volevo leggere prima, essa mi dice che l'appartenenza a questa o quella cultura non è iscritta nel sangue. L'appartenenza si definisce attraverso il percorso che ognuno di noi compie nella sua vita. Se mia madre mi avesse educato diversamente, io sarei anche potuto diventare un, tra virgolette, italiano. Si può dunque considerare l'appartenenza come un'opzione aperta che può portare a questo o a quell'altro sbocco, ma non vi è nulla di male o di diabolico nel dichiararsi parte di un gruppo linguistico. Sì? No, chiusare qui è interessante, perché è una differenza abbastanza sottile. Lui non è un essenzialista, cioè, quindi non dice esistono a priori culture diverse iscritte nella natura. L'identità è sicuramente un fenomeno culturale, nasce e viene, si stabilisce secondo determinate forme, ma chi si trova in una determinata cultura non può in qualche modo liberarsene con troppa facilità o con troppa superficialità. Non può dire, beh, ma in fin dei conti quello che sono non è importante, perché se la socializzazione si è effettuata in un certo modo, questo lascia delle tracce molto profonde. Se non è vero poi per una serie di intellettuali particolarmente abili nel mettere in crisi e in questione la propria appartenenza, è sicuramente vero per la maggioranza delle persone. Io questo devo dire che è duro da accettare, è un'acquisizione dura da accettare per chi fa il lavoro, il mestiere di colui il quale mette in crisi le certezze. Però le persone nella vita quotidiana, che non fanno di mestiere quello di mettere in crisi le certezze, ma che si sono sviluppate in un certo contesto, si riconoscono in quel contesto e non vogliono che qualcuno li cerchi di convincerli che quello che sono è una finzione. È l'obbedienza a un racconto. È un metodo che... da politico, sicuramente, non da intellettuale. Quale? Questo che hai appena esposto. Ma anche, diciamo, ma è anche un discorso da, come dire, fatto su antropologicamente forse più corretto per quanto riguarda proprio la maggioranza delle esperienze delle persone. Cioè lui distingue, io credo si possa distinguere tra gli esperimenti mentali di una persona. Io per esempio sono assolutamente convinto che l'etnia non esista, ma chiunque, qualsiasi antropologo, si dice, dammi la dimostrazione che l'etnia esiste, dice, no, l'etnia non esiste, è un racconto a cui uno può credere o meno. Il problema è che ci credono in molti, e il problema ancora maggiore è che se tu ti metti lì a convincerli che non è così, in quel momento rafforzi ancora maggiormente la loro adesione. Quindi, e questo è stato il dramma di Alexander Lange, e lo posso dire io che ho conosciuto il suo Tirolo attraverso di lui, e lo leggo e l'ho letto con grande passione. Questo è stato uno scacco molto forte, e poi la storia ha dato ragione a chi lo criticava, cioè non siamo andati verso questo sviluppo, ma anzi siamo andati esattamente nello sviluppo, perché è molto naturale andare nello sviluppo diverso, perché c'è una sorta di magnete che non ci rende così leggeri e, come dire, artisti della nostra vita o della nostra identità. Purtroppo questo, e fare i conti con questo nocciolo duro della realtà avrebbe forse semplificato le cose. Ecco perché qui c'è una grande lezione di realismo, più che non realpolitik, ma proprio di realismo politico, di i fatti, signori, questa è la realtà, è inutile che cerchiamo di sognare una cosa che non può essere realizzata, cerchiamo di lavorare nei limiti che ci sono stati assegnati. Spesso poi, cioè, tu parli del magnetismo, c'è qualcosa che ci attira verso l'ambiente, l'area nella quale la lingua, la cultura nella quale siamo bene o male cresciuti, e viceversa forse l'ipotesi di Langer, che pure ha avuto grande importanza e che pure secondo me, insomma, ha reso questa terra molto molto migliore di come correva il rischio di diventare, questo grido d'allarme che c'è stato, però forse era poneva l'asticella troppo alta. Cioè Langer stesso, per esempio, per la sua storia, lui era figlio di una famiglia borghese, aveva studiato in Italia, poliglotta, una grande intelligenza, conoscenza dei due mondi, era, come dire, effettivamente un personaggio di casa nelle due culture, nei due ambienti, a sud e a nord delle Alpi. Anche Montienni lo era. Era un personaggio che capiva lo spirito, la cultura, l'ambiente, l'atmosfera italiana, lo sapeva comprendere dall'interno e anche quelle a nord delle Alpi. Però forse, come dire, non è che possa essere questo l'obiettivo per tutti. Forse se questo è l'obiettivo per tutti, poniamo l'asticella troppo in alto e rischiamo di creare anche frustrazione e chi poi quel livello non lo raggiunge. Allora, da quel punto di vista, basterebbe essere, come dire, adesso detto con uno slogan, però diciamo su tirolesi, cioè riconoscersi in quello che è il Sud Tirolo, nelle tante cose che è, per cultura tedesca, ma non contro gli italiani, cioè non contro gli altri, e viceversa, gli italiani per quello che si è, per la cultura, per l'influenza che abbiamo da questo paese, che è il nostro paese, che è la nostra nazione, ma questo essere italiani non è che debba significare per forza essere contro gli altri, cioè ci possono pure essere italiani e sudtirolesi che sono a favore degli altri, quindi per dirla forse una cosa, non, le identità collettive sono in larga parte il risultato di una finzione, di un processo, di una costruzione, di una manipolazione, di un'educazione, di rimozioni, eccetera, eccetera. Però nei fatti ci sono, esistono e bisogna anche trovare delle regole perché vadano d'accordo queste identità collettive, non si può abolirle nel discorso, nella parola. Vogliamo leggere Durnwalder, che è molto... Questo è il grande bis. Vogliamo? Poi finiamo? Beh, vabbè, magari un po' più lungo, comunque cercherò di essere. Il Sudtirolo di oggi è legato soprattutto a un nome, Luis Durnwalder, un uomo che vive immerso nella politica dalle 5 di mattina fino a notte. È sulla scena da 40 anni e ancora non molla. Dice Jenny: energia e resistenza non mancano certo al nostro Landeshauptmann. Anche Maniago fu un duro, altrimenti non sarebbe uscito dalla guerra e dalla sua menomazione, non sarebbe vissuto così a lungo. Maniago si sentiva motivato dalla missione storica di ridare dignità e sicurezza a un popolo che rischiava di scomparire. La sua spinta era di natura ideale, sia pure di un idealismo più vicino alla realtà di quello di Langer. Durnwalder era invece notoriamente un uomo pratico, animato dalla voglia di fare. Credo che nella sua vita abbia avuto un grande peso anche la spinta di affermarsi personalmente, o diciamo pure l'ambizione. Si sa quali sono le sue massime preferite: Leben, nicht philosophieren, vivere, non filosofare, oppure nella versione dialettale Schaut das Weite kimmt im Leben. Chi è che lo capisce? Schaut das Weite kimmt im Leben. Vedi di andare avanti nella vita, vedi di farti una posizione nella vita. Un principio che lui stesso ha pienamente onorato. Figlio di una modesta famiglia contadina, è arrivato alla poltrona più alta della provincia. In questo la sua biografia rispecchia la storia del riscatto dei sudtirolesi. A ciò va aggiunto che la Volkspartei ha trovato, posto che lo abbia cercato e che non le sia caduto tra le mani, un perfetto timing storico. Quando si trattava di definire e costruire il sistema dell'autonomia, produsse un grande politico come Maniago. Quando si trattò di riempire di contenuti quell'autonomia, trovò un efficiente amministratore come Durnwalder. Una sua qualità preminente è senz'altro la furbizia. Ha capito che per avere il consenso necessario a guidare la provincia non bisogna profilarsi troppo come rappresentante di questa o quella categoria, né bisogna mettersi contro i centri di potere, ad esempio il quotidiano Dolomiten, e infatti da furbo Durnwalder ha sempre evitato di entrare in rotta di collisione con la corazzata della Tesia, anche se credo che non gli sfugga l'anomalia rappresentata da questa situazione di monopolio dell'informazione. Ha quindi cercato, e per una lunga stagione ci è riuscito, di essere il punto d'incontro tra tutti gli interessi in gioco, ma io ricordo anche certe sue battaglie negli anni 70 contrassegnate da una buona dose di demagogia e corporativismo, come quella per la pensione alle contadine. Durnwalder è un bravo mediatore, ha capacità di ascoltare e di capire quali sono gli interessi in campo. In tutti questi anni ha saputo garantire equilibrio tra gli egoismi delle diverse corporazioni. È un uomo che conosce molto bene la sua terra e la sua gente e che non ha difficoltà a inquadrare subito i problemi. A differenza di molti politici, non ha paura di decidere. Buona parte del suo successo è dovuto a questa qualità. Dopo l'epoca della lotta contro Roma, guidata da Maniago, venne per il Sudtirolo l'epoca di rimboccarsi le maniche e provvedere a tutto ciò che ci rende una provincia affermata. Paesaggi tirati a lucido, paesi rinnovati, strutture agricole, turistiche, artigianali, ma anche cementificazione, dispersione edilizia, megalomania delle opere pubbliche e via dicendo. L'epoca Durnwalder, appunto. Una cosa che non gli si può rimproverare è di insistere sulla Volkstumspolitik, cioè la politica etnica, è un'osservazione che faccio io. Risponde Jenny: è vero che da presidente della giunta provinciale non ha mai calcato su quel pedale. Sono apprezzabili le sue dichiarazioni di essere il presidente di tutti e i suoi appelli alla comunità italiana di partecipare al governo dell'autonomia. Però credo che in questo caso il suo pragmatismo non basti. Diamo buoni servizi e un'efficiente amministrazione, consentiamo alla gente di lavorare e guadagnare, di migliorare le proprie condizioni di vita, facciamo sentire loro i vantaggi del benessere e il consenso al sistema verrà, Credo che più o meno questo sia stato il modo di ragionare di Durnwalder, ma questo pensiero trascura la disposizione emotiva delle persone, il loro attaccamento a certi pregiudizi, la difficoltà di cambiare opinione. Accade così che la comunità italiana dichiari di apprezzare la qualità della vita in provincia di Bolzano, ma nonostante ciò continui a sentirsi estranea al sistema dell'autonomia. Per coinvolgere davvero quelle parti della società che finora sono rimaste differenti è necessario presentare qualcosa in più che non buone cifre statistiche. Ripeto, manca ciò che noi socialdemocratici sudtirolesi definivamo la dimensione culturale dell'autonomia. Durnwalder, con tutto il suo pragmatismo, non c'è riuscito a colmare questo vuoto. Cosa dice della sua prassi di ricevere i questuanti alle 6.30 di mattina? A me fa venire in mente il re di Francia Luigi XIV. Tutti si davano da fare per essere ricevuti da lui, persino i malati, che speravano in una guarigione dovuta al semplice contatto con il sovrano dotato di poteri taumaturgici. Naturalmente non siamo a questo punto. Oggi se uno sta male va dal medico e non da Durnwalder, anche se lui si sente davvero un po' re sole. Ma questa prassi testimonia una concezione miracolistica e primitiva del potere e del suo esercizio. Il capo si mette a disposizione della gente che va da lui esponendogli le questioni e sperando in una buona soluzione. Fa lo stesso che si tratti di un piano urbanistico, di una licenza edilizia, di una recinzione, di una discoteca che fa troppo rumore, di una pratica che non va avanti. Questa prassi suscita una certa simpatia tra la gente comune, specialmente in un'epoca in cui la classe politica se ne sta nei suoi palazzi e nei suoi rituali, avulsa dalla realtà. Durnwalder fa capire di essere volksnah, vicino al popolo, però è altrettanto chiaro che dal punto di vista democratico la pratica di ricevere i clientes è non solo ridicola ma anche nefanda. Un'amministrazione è efficiente nella misura in cui garantisce il trattamento solerte e corretto di tutte le pratiche. Se come cittadino presento un ricorso contro il piano regolatore del mio comune, le mie osservazioni, e così quelle di tutti gli interessati, devono essere considerate e valutate. Ogni questione ha una sede nella quale può essere presentata. Per i casi in cui uno si ritiene trattato ingiustamente dalla pubblica amministrazione c'è anche l'ombudsman, il difensore civico. Ciò che non si può accettare dal punto di vista del funzionamento democratico di una società è che uno, per assicurarsi la sua presunta ragione, vada dal Landeshauptmann in persona. Questo stile ha fatto scuola in Sudtirolo. Di Maniago si sa che non si occupava di alcuna questione particolare riguardante questo o quell'ufficio. Durnwalder, se chiamato in causa, mette becco persino quando si tratta di concedere o negare un ampliamento edilizio di pochi metri cubi. In modo simile si comportano diversi assessori provinciali, tutti intenti a raccogliere e dare soddisfazione alle richieste delle loro clientele. Finora questa pratica ha pagato in termini elettorali, ma essa indispone gli amministratori che spesso si vedono esautorati e scavalcati. Il singolo cittadino, per parte sua, ha capito bene il gioco e al funzionario che gli lega un permesso risponde che lui sa bene come ottenere ciò che gli serve. Non mi sembra proprio una prassi esemplare. Un'altra critica frequente al sistema di potere del Landeshauptmann riguarda il centralismo della provincia a scapito dei comuni. È una critica che condivido in pieno, dice Jenny. I comuni si sentono esautorati e ha ragione. Prendiamo la questione dell'energia. La provincia si impegna per ottenere dallo Stato le concessioni idroelettriche, benissimo, ma da parte sua riserva ai comuni una partecipazione insignificante a questo affare. Non a caso le maggiori critiche a questa politica vengono dalla Val Venosta, la valle che ha dovuto supportare i maggiori costi ambientali delle centrali idroelettriche. Ogni qualvolta si è parlato di ampliare i poteri dei comuni, il gruppo dirigente della Volkspartei ha posto questo argomento. Così si dà troppo potere al comune capoluogo, dove gli italiani sono in maggioranza. Un ragionamento che poteva avere una qualche validità in passato per evitare una pericolosa contrapposizione Bolzano-provincia, ma oggi le condizioni sono cambiate nel capoluogo e in tutti gli altri comuni. Questi ultimi hanno acquistato dignità e coraggio e non sembrano più disposti ad accettare le direttive provinciali senza far sentire la loro voce. Inoltre sembra farsi largo anche una nuova consapevolezza che mina alla radice il sistema di potere costruito tra Palazzo Widmann e via Brennero, cioè dalla giunta provinciale e dalla SVP. Le connessioni tra il potere della provincia e quello del partito sono sempre più disinvolte e vergognose. La provincia nomina i suoi rappresentanti negli organismi direttivi delle società e delle istituzioni da essa controllate, dove suoi sta per Volkspartei o peggio ancora per le correnti che la controllano. Si arriva così a delle vere e proprie sfacciataggini come quella dell'ex presidente dell'Autobrennero ed ex parlamentare della Volkspartei Ferdinand Willeit, che pretende di continuare ad accumulare cariche pubbliche anche dopo aver occupato per decenni poltrone lautamente ricompensate. Vivere con 2.000 euro al mese per me è impossibile, ha fatto sapere. Un'uscita insopportabile, viste le condizioni di migliaia di famiglie in Sudtirolo. Postenschacher, si dice in tedesco, lottizzazione in italiano. Solo che, a differenza della lottizzazione italiana, qui si assegnano quote e poltrone agli esponenti di una sola parte. Fino ad oggi Durnwalder è riuscito, col suo forte carisma personale, a tenere insieme capra e cavoli, ossia il potere centrale della provincia e il consenso di cui essa ha bisogno. Molti segnali però fanno capire che le cose stanno cambiando. Ecco, le cose stanno cambiando e noi abbiamo finito. Sì. Grazie. Grazie.